Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e bentornati su Secondo Fuoco me alle sei polveri. Partito un po' in anticipo, è ora. Ora. E buonasera e benvenute, bentornate e bentornati a tutte e tutti su in Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Wombat, naturalmente. Ai nostri microfoni abbiamo Bricco Baldo da una parte del tavolo, dall'altra parte del tavolo. Abbiamo Grippo e poi abbiamo anche un sacco di ospiti. Certo. Che con calma vi presenteremo. E un sacco di argomenti. E un sacco di argomenti, tantissimi, tant'è che dovremo andare un po' come dei treni. Esatto. Risicati nel numero quest'oggi, ma non risicati negli argomenti. 68 come? Ma 68 come? Aspetta, allora, 68 come... diverse cose, no? Diverse cose, tante cose, una cosa grossa in particolare. Quella però che avevamo scelto è scontata. Soprattutto... Noi alla fine abbiamo scelto 68 come i giorni che puoi far passare dopo il licenziamento per richiedere la disoccupazione, quindi non più di 68 giorni. Quindi tranquilli, se volete far buttare fuori come noi dal lavoro e aspettate 65 giorni tranquilli al mare con la liquidazione, dopodiché gli ultimi 3 giorni via negli uffici, controllate che non siano di fine settimana, se no anche un po' prima, via negli uffici per la disoccupazione. Dai. Detto questo, volevamo introdurre una nuova consuetudine se vi piace. In questa puntata e in questa trasmissione per i grandi anni a venire di Fuoco alle polveri, e cioè una piccola lettura. Piccola lettura tratta da Cronache e Rivelli, che è un almanacco del quale parleremo in seguito. Ma intanto vi leggiamo una parte di questo almanacco che riguardo le date che comprendono anche la data di oggi. Ok, dal 2 al 4 è la data qua citata. Nel frattempo io stoppo un attimino la musichetta perché ci dà pure noia volendo in questo momento. Ok, 2-4 giugno, l'occupazione delle prostitute di Lione. Peggio dell'oppressione vi è solo la sua combinazione con l'esclusione e la condanna da parte di un'opinione pubblica di una società ipocrita. Lo sanno bene le ragazze che vivono di prostituzione, sfruttate e maltrattate a livello sia fisico che psicologico, strette tra uno Stato che le criminalizza e, la violenza di chi non guadagna con il loro lavoro. Di chi guadagna con il loro lavoro. La Francia negli anni 70 non faceva eccezione. La prostituta viene considerata una non persona, un errore della società. Si identifica quello che fa come sintomo di un malessere mentale e una nuova legge affida alle ragazze ai servizi sociali. Le prostitute di Lione sono duramente colpite, dato che fino a poco tempo prima operavano senza problemi nelle zone contigue al centro della città. Vengono mandate via con la forza e con le botte, ma la loro è una ritirata strategica. Ad organizzare la risposta ci sarà Ulla, 28 anni, mamma prostituta. Condurrà il 2 giugno del 1975 l'occupazione della chiesa di Saint-Nizier, insieme a una sessantina di ragazze. Le loro richieste sono chiare: la depenalizzazione della prostituzione e il rilascio di alcune delle loro compagne arrestate. Il gesto, simbolo della battaglia di queste donne contro l'ipocrisia di una società che le rifiutava nel pubblico e ne serviva nel privato, darà il via nei giorni seguenti ad episodi di emulazione di numerose città francesi. Il diffondersi della protesta non cambierà tuttavia l'atteggiamento di rifiuto da parte del mondo politico, che negherà anche soltanto di confrontarsi con le prostitute. 10 giorni dopo le ragazze saranno allontanate forzatamente dalla chiesa con l'intervento della polizia. Rimane il successo della loro impresa, il coraggio di un gruppo di prostitute che hanno ricordato a tutti la loro esistenza e di fatto la loro presenza nella vita culturale e sociale francese. Sì, ripetiamo, questo è Cronache Ribelli, almanacco che è stato presentato giusto ieri a Inchiostri Ribelli, al Festival Tattoo and Riot Art. Detto questo, noi andiamo avanti, vi diciamo intanto di quello di cui parleremo in questa puntata. Il tema principale è la questione di Sant'Orsola, con ospite Goffredo Serrini del Santo Sola Project. Andremo a chiamare anche le mamme non inceneritore. Forse avremo anche una sorpresa in merito a Sant'Orsola, ma poi abbiamo in programma anche la questione dei migranti con un campeggio ad alta quota, voci, anzi echi, che arrivano dai Balcani. E brutte notizie che arrivano dal sud Italia. Brutte notizie che arrivano dal sud Italia e tanta musica. Questione buona. Razzismo, questione, insomma, tante questioni. Calci dal basso, fra l'altro. Sì, quindi, sì, insomma, di lato. Non mollate. Non molliamo. E mandiamo una canzone? Vai, bene. Una canzone molto urbanistica, direi. La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza, il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata. La mia casa è in un ostello di Berlino, chiaramente riadattato, come tutto in questo splendido casino organizzato, dove niente è come sembra, o perlomeno niente è più come era stato, e tutto quanto intorno me lo insegna, che il passato che è già stato fatto a pezzi come un muro, qualcosa ne è rimasto per orgoglio, tutto il resto invece è proiettato nel futuro. Se poi verrà il momento in cui ci vuole il sole e un vento che ti chiama, casa mia sarà una cava favignana tra due ali di farfalla, una bianca come il tufo e dolce quasi come l'altra è dura e gialla. Sempre pieni degli inglesi sempre strani, dei vinili che nascondono tesori mai sentiti. La mia casa allora faccia sul Tamigi, forse molto più lontana, in cima agli scalini di Teotihuacan, forse casa mia a Parigi, tra la Bastiglia e il Bataclan. Sì, casa mia a Parigi, tra la Bastiglia e Notre Dame. Perché ho amato mille volte ho cominciato, ho lasciato mille pezzi del mio cuore sul sagrato delle chiese, nel cortile abbandonato di un compound sul sudanese, sul tortuoso muro a secco gallurese, su di un ponte chilometrico di Istanbul, magnifica e geniale, che riesce a trasformare il mare in fiume, viceversa, il fiume in mare. Nella mia casa è tutta Roma, perché è qui che sono nato, in mezzo ai preti, i gladiatori, gli avvocati, i senatori, i tassinari, gli impiegati, le bariste, gli artigiani, i rigattieri, i poliziotti, i cravattari, le puttane, le 2000 fontanelle per le strade, dove l'acqua scorre sempre e non si ferma, come se l'acqua fosse Roma, come se fosse eterna, come se l'acqua fosse Roma, come se fosse eterno. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Thank you. tornati in regia. Allora, avevamo detto, grandi ospiti, abbiamo una questione spinosa che tutte le volte che io passo dal centro, devo essere sincero, mi domando, ma perché? Ma perché? Ma perché? Abbiamo qui con noi a raccontarci il perché e il per come Goffredo Serrini, che... buonasera. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Architetto, docente dell'Università di Firenze, di urbanistica, se non mi sbaglio. Più o meno. Abitante di San Lorenzo. Abitante soprattutto. Residente e resistente. Residente e resistente nel quartiere di San Lorenzo, che vede al suo centro, nel suo cuore, una, si può chiamare una piaga? Ma si può anche chiamare una piaga. Adesso diciamo che mi piace più partire dalla canzone di Silvestri che avete lanciato precedentemente, perché in realtà sì, certo che è una piaga, perché è un complesso abbandonato da decenni, per cui è chiaro che è un problema enorme, però è anche l'insieme, il collage di tutte quelle immagini, alcune abbastanza divertenti, che c'erano nel testo della canzone Silvestri di prima. Cioè è un collage incredibile di pezzi di architettura, di spazi, di funzioni che ha avuto, ed è la ragione per cui il Sant'Orsola Project, che è un gruppo di cittadini del quartiere da anni, cerca di lavorare sull'ipotesi di come un pezzo di città così importante debba e possa essere recuperato. Però, se voi pensate sia opportuno, io faccio una... Allora, localizziamolo intanto, esatto, per chi non l'avesse, esatto, non avesse presente. Che esatto. Allora, intanto ci troviamo nel quartiere di San Lorenzo, nel centro di Firenze, a due passi dal mercato storico di San Lorenzo. Due passi vuol dire 10 metri, 20 metri. Due passi metri vuol dire pochi metri, ma forse questo è interessante anche a due passi dal Duomo, dal Battistero, dalla Basilica di San Lorenzo. Cioè, solo questo per dire che già, se ci pensiamo, è inverosimile immaginare che dentro un contesto di questo genere, nel centro del centro della città, di una delle città più importanti dal punto di vista della storia dell'arte e dell'architettura del mondo, città patrimonio dell'UNESCO da anni, eccetera, eccetera, esiste da moltissimi decenni un enorme complesso, che è appunto il complesso di Sant'Orsola, che giace in uno stato di pressoché totale o quasi totale abbandono. Quindi questo da tanti anni oramai. Punto, da tanti anni. Forse credo sia anche curioso e interessante, in maniera ipersintetica, fare anche una brevissima storia di questo complesso, perché questo è un complesso che è di origine trecentesca, nasce come un convento intorno alla metà del Trecento. Non faccio una storia lunga, state tranquilli. Questo convento, come succedeva in quegli anni, man mano diventa più grande, si costruiscono degli altri pezzi, gli altri pezzi includono al suo interno degli orti, come era consuetudine in quel periodo. Dopodiché, quando raggiunge una notevole dimensione di importanza nel complesso, per farla brevissima, si arriva in epoca molto più recente, e come voi sapete, a un certo punto i conventi vengono soppressi. Quindi questo convento, come molti altri conventi fiorentini di grande importanza, di grande rilevanza, che, attenzione, avevano sempre avuto, indipendentemente da chi li abitava, una funzione anche di grande attrazione all'interno dei quartieri, all'interno dei tessuti urbani dove erano abitati da cittadini, suore, frati, preti e quant'altro, ma che però avevano anche una funzione di gestazione, di origine della struttura urbana che gli sta intorno. Comunque, per farla breve, questo convento viene soppresso e, caso abbastanza curioso del destino, viene fatta che cosa lì? Viene fatta una fabbrica. Viene fatta una fabbrica e diventa quella che sarebbe stata la prima manifattura tabacchi di Firenze. Quindi stiamo parlando della fine 800? Stiamo parlando, sì, della fine 700, prima 800, della trasformazione, nella soppressione del convento, nella sua graduale trasformazione in fabbrica. È curioso pensare di come poi, questo lasciatemi fare un inciso, di come i destini di questo edificio, che è stato manifattura tabacchi, e della manifattura tabacchi, quella che forse oggi i fiorentini conoscono di più, che è quella verso Piazza Puccini, alle Cascine, tutto sommato alla fine abbiano ancora una stranissima connessione, no? Sì, sono entrambi in bilico esatto, di destini, di recuperi divenire, funzionanti o non funzionanti, di abbandoni o di speculazione, a seconda dei casi, eccetera. Va bene. Fatto sta che diventa manifattura tabacchi, viene quindi pesantemente trasformato, subisce una prima trasformazione fisica, anche se il corpo complessivo del convento rimane quello che è aggiunto fino a noi, quindi un grande isolato urbano perimetrato sul bordo, con all'interno una serie di corti abbastanza grandi, abbastanza belle. Sempre per farla breve, dopo la dismissione della manifattura tabacchi, quando per l'appunto negli anni 30 viene portata dove poi fu collocata, cioè nella zona delle Cascine, il convento, ex convento, poi manifattura tabacchi, viene di nuovo per un breve periodo sostanzialmente abbandonato, fino al punto in cui nel dopoguerra diventa, per un periodo abbastanza breve ma molto intenso da un punto di vista della memoria e dell'uso, di fatto diventa un luogo di raccolta dei profughi dell'Istria. E di nuovo anche questa è una cosa strana, se ci pensate, cioè di nuovo questo luogo, che ha avuto già tutta una serie di passaggi nella sua storia, si ritrova ad essere un luogo di accoglienza di disperati, di gente che ha perso tutto, di gente che viene via dalle terre dell'Istria dopo la fine della guerra e che abita provvisoriamente per un periodo all'interno di questa struttura. Si arriva più vicini ai nostri tempi, di nuovo quando finisce questa epoca di accoglienza, chiamiamola così, il complesso, faccio rammento per chi ha una qualche tipo di idea in questo senso, che stiamo parlando di 17-18 mila metri quadri, cioè tanta roba, un isolato grande. Il complesso viene di nuovo praticamente abbandonato per un periodo abbastanza lungo, poi vengono iniziate una serie di ipotesi di recupero del complesso, l'università se ne interessa, si pensa di destinarlo a una facoltà, a una qualche facoltà, diciamo, dell'Università di Firenze, di farci a un certo punto addirittura una casa dello studente, tutta una serie di progetti che non decollano mai, che vengono a volte studiati, a volte ipotizzati, ma che poi si fermano, fino a che il demanio, perché fino a quel momento l'edificio è stato di proprietà demaniale, cioè dello Stato, decide con una scelta folle, che non credo possa essere definita in nessun altro modo che questo, siamo negli anni 70 più o meno, decide di concentrare, di fare un progetto che avrebbe concentrato all'interno del Sant'Orsola tutti gli uffici della finanza, cioè caserma, finanzieri, uffici, mezzi, eccetera. E da lì iniziano una serie di lavori, inizia un cantiere infinito, che le cui ferite, diciamo così, i cui esiti sono ancora presenti, se voi girate intorno. Più che presenti, sono la prima cosa che si vede, probabilmente. Sono la prima cosa che si vedono, perché in realtà questo cantiere fa una serie di operazioni dentro, fuori, sopra e sotto l'edificio, peraltro operazioni, come posso dire, totalmente segretate, perché di fatto in quel periodo Sant'Orsola era coperta da segreto militare, in quanto ci lavorava un cantiere di una grande caserma praticamente. Quindi questi lavori, in barba a qualsivoglia tipo di attenzione, diciamo, per la storia e la stratificazione presente nell'edificio, in barba anche, se vogliamo, ai dettami, ammesso ve ne fossero, della sovrintendenza o di chi volete voi, modifica pesantissimamente l'edificio, ne sventra alcune parti, ne modifica in maniera direi irrecuperabile delle altre, e soprattutto racchiude l'edificio dentro una vera e propria camicia di forza di cemento, che è quella che appunto voi dicevate, quella che si vede più palesemente andando in giro intorno all'edificio, e lo ingabbia, nel vero senso della parola, lo ingabbia da una parte nel suo destino di edificio trasformato pesantemente in maniera irrecuperabile, dall'altro lo ingabbia dentro una situazione che poi di nuovo si ferma. È un destino veramente crudele per certi aspetti, quello di Sant'Orsola, cioè tutte le sue funzioni, tutte le sue trasformazioni, tutta la sua storia, man mano si ferma sempre di fronte a delle questioni complicatissime. Il cantiere si interrompe, viene interrotto ma mai finito, per tutta una serie di beghe incredibili fra amministrazione, impresa, eccetera, ora la faccio breve, e di nuovo questo produce abbandono, produce isolamento, produce che questa scatola di cemento gigantesca venga totalmente rimossa e come dire, sottratta a qualsivoglia tipo di uso. Fino a quando, dentro un'operazione piuttosto complicata che adesso rammento solo per sommi capi, in un gioco di scambi fra pubbliche amministrazioni, siamo già arrivati quindi molto in là nel tempo, cioè voi considerate che sto già parlando di un periodo in cui per più di 10, 15, 20 anni l'edificio è stato completamente abbandonato con questo cantiere mai finito. In un gioco di scambi fra le pubbliche amministrazioni, la provincia, l'allora provincia di Firenze, scambia, se così posso dire, questo edificio di cui diventa proprietario, E questo edificio viene ceduto, diciamo così, dal demanio alla provincia di Firenze. Stiamo parlando di una decina d'anni fa. Stiamo parlando di poco più di 10 anni fa. Sì, mi pare sia stato poco più di 10 anni fa. E, a quel punto va detto, per onestà intellettuale, che parte un'ipotesi di recupero dell'edificio. Un'ipotesi più o meno credibile, più o meno interessante, in virtù della quale si pensava di riuscire ad avere un finanziamento piuttosto consistente all'interno di quelli che si chiamano PIUS, cioè sono dei piani che vengono in parte finanziati dall'Europa, eccetera, e parte un'ipotesi di progetto. Questo progetto era all'epoca presidente della provincia Renzi, viene annunciato in pompa magna, urbi e torbi, come è solito fare Renzi, ma come va detto fanno in genere politici, sindaci, assessori, cioè tutti molto bravi a fare grandi annunci, un po' meno bravi quando le cose vanno meno bene a dire fare autocritica, ma al di là dell'autocritica a dire con trasparenza come stanno le cose, come stanno andando, cosa succede sotto il cielo, che è quello che poi in realtà la gente del quartiere, gli abitanti, i residenti eccetera vorrebbero sapere quando le cose vanno bene, ma vorrebbero sapere anche perché, o se non vanno avanti le cose per quale ragione, cosa è successo. Comunque il progetto si interrompe in questo caso, di nuovo non vengono trovati i fondi, diciamo così, per portare avanti fino in fondo questo progetto, e da lì parte una seconda storia di fallimenti. Ma dispiace raccontare questo, io non sono contento dei fallimenti, io sono uno che si occupa di città e che pensa che le cose in città debbano e possano essere fatte, che i progetti debbano essere portati avanti e fatti con intelligenza e con partecipazione, quindi non è che... Ma la storia di Sant'Orso è veramente terrificante da questo punto di vista, e quindi seguono altri anni di, come dire, tentativi più o meno fallimentari. L'amministrazione provinciale decide, prima l'amministrazione provinciale, poi quella della città metropolitana, che come voi sapete si sostituisce, certo, adesso alla provincia, cerca di far partire dei cosiddetti bandi di valorizzazione per concessione, cioè sono dei meccanismi piuttosto complessi da un punto di vista finanziario e anche urbanistico, in virtù dei quali l'amministrazione fa, ad ora detto in maniera molto povera, degli accordi con dei soggetti privati, i quali investono su questo edificio, ne hanno per conseguenza l'uso e in parte anche se vi sono dei guadagni per un certo numero di anni, ma l'edificio resta di proprietà pubblica. Allora, questo è un tema molto complesso, molto scivoloso, perché l'idea che quello che è un bene pubblico, e questo è un tema fondamentale nel caso di Sant'Orsola come in altri edifici della città, debba e possa essere recuperato, utilizzato da soggetti privati, è un tema che va guardato con, come dire, senza demonizzarlo, però va controllato con una regia molto accorta, molto attenta. Ecco, cioè, senza demonizzarlo, anche perché, per intenderci, per mettere le mani su Sant'Orsola stimano quanto una somma di svariate decine di milioni di euro, se non mi sbaglio. Ma le stime, come voi sapete, possono essere molto diverse. Diciamo che è realistico pensare che ci possano volere 20, 25, anche 30 milioni per rimettere a posto Sant'Orsola. Però qua, se allora vogliamo un attimo toccare questo punto, diciamo che per trovare così tante risorse ci possono essere diversi canali, forse meno, come dire, meno impossibili di quanto sembri. C'è ovviamente il canale dell'investimento privato, che è quello che finora l'amministrazione ha tentato di seguire in maniera più diretta. E beh, che direi che anche sì, nei vari casi in città utilizza questo, ecco. Utilizza prevalentemente questo. Ci sono, secondo me, dei casi in cui questo ha un senso, ci sono dei casi in cui questo è assolutamente sbagliato, nel senso che non tutti i cosiddetti contenitori, che è parola non bellissima ma che fa capire, non tutti i cosiddetti complessi o edifici che sono dismessi in città debbono e possono avere lo stesso destino dal mio punto di vista. Ci sono alcuni che evidentemente hanno una fortissima rilevanza dal punto di vista anche dell'identità di una zona, di un quartiere, e altri che invece possono anche essere riutilizzati con modalità e con funzioni che si possono anche rendere compatibili con degli cosiddetti interessi privati. Si tratta sempre di capire se e come l'amministrazione che gestisce il bene pubblico si comporta nei confronti di questi soggetti. Cioè si tratta di capire in termini contrattuali, in poche parole, se fa un'operazione intelligente che ha come scopo quello di non solo mantenere la proprietà del bene, ma anche valorizzare quel bene con una fortissima attenzione e condizionando fortissimamente l'eventuale intervento privato su degli interessi di carattere pubblico e generale, o se invece come posso dire, è disponibile a fare qualunque cosa purché il privato intervenga, cosa che è successo in tutta una serie. In tutta una serie di casi, e poi fra l'altro evidentemente le valutazioni non erano state fatte così bene, perché anche l'ultimo progetto che prevedeva la famosa scuola internazionale di Bocelli più sì. tutta un'altra serie di servizi, ecco, anche di spazi dedicati anche ad altro, è andata di fatto fallita per problemi, diciamo, legali di alcuni investitori. Ci sono stati problemi nella cosiddetta cordata di privati che tentava di realizzare questo progetto. Questo è piuttosto grave, non si può dare colpa di questo all'amministrazione, cioè se c'è uno che come dire, che non ha i requisiti, si può dare la colpa all'amministrazione, se così vogliamo dirlo, però per il fatto che evidentemente su questo ci voleva, dal mio punto di vista, un controllo molto più, come dire, molto più fermo su determinati requisiti e probabilmente anche un accordo migliore sui tempi o sugli aspetti di carattere economico, ora si entra i tecnicismi sui quali sarebbe forse... Ecco, però complesso. Nel senso è complesso, ma secondo te dove sbagliano? Perché voglio dire, alla fine si sta parlando di insuccessi, di progetti sì. che poi alla fine sono andati di fatto a morire, cioè, quindi evidentemente... qualcosa di sbagliato succede, ecco. Allora, io provo a risponderti con due o tre punti, se possibile molto sintetici, dichiarando con molta franchezza che io penso siano possibili delle combinazioni pubblico-privato, cioè non sono convinto che, specialmente in una situazione come questa, dove le risorse economiche sono molto limitate, il pubblico non ce la fa sempre a far tutto. La questione che va rivendicata dal punto di vista del pubblico, secondo me, è uno, il fatto che si voglia tenere con grande fermezza la regia di questa operazione e non delegarla agli altri. Questo vuol dire avere una visione strategica, vuol dire avere un'idea molto chiara di quello che puoi e vuoi che venga fatto in quel certo posto. Poi questa cosa può essere anche in parte realizzata da altri soggetti che sono d'accordo con te. Secondo, ci sono tanti modi per recuperare un edificio o un complesso. Ci sono modi molto costosi, ci sono modi meno costosi, ci sono modi che implicano funzioni che per loro natura richiedono un investimento molto grande e altre funzioni che invece richiedono investimenti minori. Anche qui c'è una strategia che evidentemente cambia. Allora, nel caso di Sant'Orsola, evidentemente il tentativo è stato quello di coniugare specialmente nell'ultimo progetto, nell'ultimo tentativo, ahimè fallito, della cosiddetta cordata Bocelli. In quel caso devo dire che l'amministrazione, forse, se lo posso dire anche grazie alla spinta, alla pressione di Sant'Orsola Project e di altre associazioni nel quartiere, aveva comunque tentato di introdurre all'interno del bando una serie di elementi non negoziabili, che riguardavano, se non altro, il garantire che qualunque fosse stato il progetto, qualunque fosse stato l'investimento, il sistema complessivo degli spazi a terra, cioè delle corti, sarebbe comunque rimasto pubblico, permeabile, transitabile, fruibile, utilizzabile. Tipo le murate, per intendersi. Tipo le murate, per intendersi. Infatti è chiaro che è un'operazione che nell'immaginario collettivo può richiamare quella delle murate, nel senso sono due edifici che hanno requisiti e caratteristiche simili. La differenza è che le murate è riuscita a concretizzare il suo progetto in un momento storico in cui da una parte il comune ha gestito il progetto in prima persona e questa è un'operazione che è stata interessante e che oggi i comuni non fanno quasi più. Dall'altro il comune all'epoca è riuscito a prendere una serie di fondi, di finanziamenti, di canali di finanziamento che hanno permesso un investimento anche lì di svariati milioni di euro, che però è stato quasi completamente gestito dal pubblico. Mentre su Sant'Orsola l'operazione è stata quella di tentare di delegare al privato il progetto e l'investimento sul progetto, quindi un approccio completamente diverso. Ecco, fra l'altro, proprio su questo ti interrompo, ma abbiamo al telefono una sorpresa. Prego. Allora, ci ha chiamato giusto ora Ilaria Agostini, architetta urbanista. Ilaria. Vediamo se riusciamo a collegarci. Prova a parlare, Ilaria. Ilaria. Pronto? No, ti sento e non ti sento. Ok. No. Noi per ora non ti sentiamo. Aspetta un attimo. Aspetta. Mi senti ora? Sì, ora ti sento. Allora forse eri... Bene, allora abbiamo al telefono Ilaria Agostini, che è un urbanista, pubblica, scrive su per un'altra città. Abbiamo spesso utilizzato i suoi articoli. Aspetta un attimo, non vieni sentito da Ilaria, devi venire di qua con me. Benissimo. Scusa, Ilaria. Allora, dicevo, abbiamo in collegamento Ilaria Agostini, che è un urbanista, scrive molto spesso per un'altra città, e abbiamo utilizzato spesso i suoi articoli come fonti, articoli che trattano in particolare il diritto alla città. Ciao Ilaria, buonasera. Buonasera a voi. Allora, non ti sentiamo attualmente. Ora mi sento. Ma probabilmente è un problema nostro. Non si può. Io mi sento benissimo. No, non si può. Devi parlarci così. Allora, così, va bene. Allora, Ilaria, stiamo parlando in merito di Sant'Orsola. Abbiamo appena spiegato con Serrini, con Goffredo, che cosa è successo negli ultimi anni, e lui stava appunto citando i vari tipi di intervento che è possibile fare sugli edifici, soprattutto quelli delicati del centro storico, perché si può, diciamo, l'amministrazione di fatto ha una scelta se delegare completamente la questione al privato senza avere un minimo di potere contrattuale. Però questa cosa di fatto è la cosa che stavamo dicendo, sta succedendo un po' per molti edifici della città. Tu hai nei citi nei tuoi articoli spesso, e fra l'altro beni di proprietà di vari enti. Però ecco, riguardo a Sant'Orsola, che cosa ci puoi dire? Ecco, Senti, direi riguardo a Sant'Orsola, cioè riguardo a Sant'Orsola è un caso all'interno di un quartiere, di un settore della città che è al centro di uno spossessamento, quello che chiamo in genere spossessamento della città pubblica. Faccio un esempio, prendiamo la ludoteca che era all'ospedale degli innocenti, no? Dove i bambini andavano a giocare in uno spazio monumentale, è stato trasformato in museo, quindi in una funzione esclusiva per quanto civile, eccetera, e questo è uno dei casi, no? Di spossessamento. O i locali all'interno del mercato centrale, una funzione vitale per il quartiere che è stata sottratta agli abitanti per farne un'occasione di mercato, no? Cioè siamo in una città dove l'equivalenza tra città e merce all'interno della logica neocapitalista è all'apice, cioè un'equivalenza assolutamente, cioè la città è un'occasione di mercificazione, è un'occasione di mercato. Sant'Orsola si trova in un quartiere che sta subendo un cambio antropologico particolarmente pesante. Ho scritto qualche dato sulla nostra rivista, la rivista del nostro laboratorio che si chiama La Città Invisibile. Gli abitanti del centro storico stanno aumentando numericamente, questi sono i dati statistici, in realtà però cambia la natura dei residenti, no? Quindi siamo di fronte a un quartiere dove una grande percentuale degli abitanti, dei residenti sono stranieri, eccetera. Quindi anche gli amministratori si trovano di fronte a una città che è molto cambiata. Ma è molto cambiata? Io poi vado avanti, dite quando... Sì, insomma, sì, certo. Io vado avanti e poi voi, se vi interessa qualcosa, approfondisco. Insomma, è una città che è cambiata negli anni, ma anche per volere, no, delle amministrazioni. Il decentramento, aver portato l'università, le facoltà di scienze sociali, le facoltà di scienze biologiche, eccetera, fuori, in periferia, Novoli, cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che le funzioni si siano rarefatte, no? Funzioni rare, importanti come l'università, sono state portate fuori, è cambiato, rimaniamo in termini economicisti, è cambiata l'offerta della città, no? Quindi quell'offerta culturale non c'è più, sono andati via gli studenti, con questo snaturamento dell'antropologico, no? Dell'abitare, a questa mutazione ha fatto gioco ad esempio la liberalizzazione del commercio 1998 col decreto Bersani, no? Liberalizzazione del commercio vi faccio un solo esempio, siamo sempre intorno a Sant'Orsola, via Tanzanobi, mi ricordo al fine degli anni 90, li contavo perché avevo un po' un'ossessione per queste categorie, come... c'erano tre fornai, quindi tre artigiani che facevano il pane, e tre fabbri, ecco, ne è rimasto, ma un miracolo, ne è rimasto uno, un solo fornaio, un solo fabbro, non so neanche più se in questo momento. Quindi abbiamo avuto un impoverimento delle funzioni, impoverimento del tessuto commerciale, la pedonalizzazione in Piazza del Duomo, nel quartiere di Sant'Orsola, ha provocato uno sconvolgimento, cioè ora mi veniva in mente in via 27 Aprile, alla fermata, quella via 27 Aprile vicino a via Santa Reparata, quindi lì con i pressi di Sant'Orsola, mi sono messa un po' a contare in previsione della... ci passa l'1, il 6, il 7, il 10, l'autobus, l'11, ci passa il 17, il 20, il 25, il 23, il 31, il 32, il 33 se non erro, quindi è una via trafficatissima, cioè è un quartiere che viene operato di una quantità di passaggi di automobili e autobus che sappiamo, la stazza eccetera, ecco, tutto questo in una povertà di verde, no? Tanto per farvi il quadro del quartiere in cui si trova Sant'Orsola e quindi le potenzialità che avrebbe quell'edificio che poi occupa un isolato, quindi un edificio molto molto grande, in un quartiere dove il verde è pochissimo. La fortezza sappiamo in che stato è da anni, addirittura hanno tagliato tutti i platani che insomma costituivano, ecco, che cosa voglio dire? Quindi stai un po' mettendo Sant'Orsola come un tassello non diverso da tanti altri che ci sono in città. Che cosa però ti auspichi per quello spazio? Che cosa vorresti vederci? Senti, allora, non mi riesce a rivedere, io non sono una progettista, sono urbanista, quindi ho una scala diciamo diversa rispetto, so che avete intervistato prima Goffredo Serrini che sicuramente ha ottime idee sulla è ancora qua, ti sta ascoltando tra l'altro. Bene, lo saluto. Cioè pensiamo il quartiere un attimo a volo d'uccello, il quartiere di Sant'Orsola, abbiamo Sant'Orsola, non so quante decine di migliaia di metri quadri di sul di superficie utile lorda, San Gallo, la corte d'assisi, la questura che è la città metropolitana nell'ospedale di Bonifazio, la questura in via Zara, anche quella è messa in vendita, il Maglio non mi ricordo se è stato venduto o dato in concessione, quindi abbiamo grandi edifici, grandi aree con potenzialità anche di verde, di giardino, che sono sottratte o essendo messe in vendita o comunque auspicandosene la vendita, sono sottratte, no? Sottratte all'uso dei cittadini, ma anche alla possibilità di decidere cosa fare di questo. Il caso di, poi arrivo a Sant'Orsola, il caso di San Gallo è esemplare, no? L'ospedale di San Gallo è in vendita, quelli sono anche lì 15.000 metri quadri, forse di più. Il comune per l'ospedale di San Gallo nel regolamento urbanistico ha dato questa definizione, è cito testualmente, ormai imparato a memoria, qual è la destinazione d'uso che il comune, quindi la comunità, prevede sull'ospedale di San Gallo, cioè proprietà pubblica, è, cito, un mix di funzioni, mix funzionale da definire, quindi cioè si abdica anche al piano, cioè si evita di deciderlo, questa decisione la deve prendere qualcun altro. Chi la deve prendere? Allora, la Cassa Depositi e Prestiti, che ha in proprietà il bene e che attraverso un suo fondo di investimento, dico fondo di investimento, cioè stiamo parlando di come un bene pubblico, mattone, un luogo della città diventa azione, cioè siamo in un campo dove l'architettura fisica, la URSS e l'architettura finanziaria veramente si sovrappongono e equivalgono, come ho detto all'inizio. Chi è che deciderà cosa fare su quest'area? Ma la Cassa Depositi e Prestiti ha fatto un bando in cui non si metteva a bando appunto la creatività, la genialità di architetti che riuscivano a capire, no, si è messo a bando si è fatto un bando per definire la destinazione urbanistica da proporre come variante al piano regolatore, cioè non so come dirvi, è tutto saltato. Quindi in questi, cosa fare di questi edifici? Cosa fare? Le cose sono moltissime. Io sono dell'idea che Sant'Orsola insieme a San Gallo, alla Corte d'Assise eccetera, dovrebbe far parte di un sistema, no? Di un sistema multifunzionale nel quale prevedere, io faccio degli esempi, poi andrebbero studiati nel dettaglio, prevedere cosa? Ad esempio una residenza pubblica, la residenza provvisoria per migranti, io a questo ci terrei molto, perché dalla forza, no, di queste persone che stanno arrivando, dalla voglia, come si dice, dalla voglia di libertà che si portano dietro, forse rinascono questi quartieri che sono ormai vero luogo di speculazione, di innalzamento e valorizzazione della rendita, ma insomma questa è una parentesi. Quindi residenza di vario tipo, di lungo periodo, di corto periodo, breve, e alla residenza sposarci una multifunzionalità di tipo artigianale, cioè i lavori artigianali, il piccolo commercio, e poi soprattutto i luoghi di aggregazione. Guarda che nel quartiere tra via San Gallo, la Fortezza, il mercato, non c'è un luogo di aggregazione, non c'è, storicamente non c'è una casa del popolo, non c'è un luogo dove fare le riunioni, che so io, di comitato o di associazione, una casa delle associazioni, cioè manca tutto. Quindi cioè è solo scegliere fior da fiore, non è che dice c'è tutto, bisogna inventare una destinazione, no, bisogna ricominciare. Quindi luoghi di aggregazione, residenza pubblica di breve periodo, di lungo periodo, rivolta a cittadini, a migranti, asilanti, a rifugiati. Quindi non vedo cosa possa mancare. Manca sicuramente, questa era una proposta che fu fatta ai tempi della provincia, un centro di, ora dico centro sportivo ovviamente nel senso alla scala che può avere in un quartiere del centro, palestra, piscina, ecco, luoghi anche dove curare il corpo, cioè non c'è, non, è una delle tante funzioni aggregative, socializzanti che potrebbero essere ospitate da Sant'Orsola. Ovviamente la corte potrebbe essere poi destinata a giardino, anche luogo per piccoli mercati, cioè voi pensate che il mercato contadino viene fatto, è stato fatto per anni dalla polveriera, quindi una in un centro, in un luogo occupato, quindi si è sopperito a una mancanza di un servizio alla cittadinanza, che era quello del mercato contadino, eccetera, da parte di persone, quindi un welfare dal basso di persone che si erano auto-organizzate. Ecco, queste cose potrebbero anche essere, come dire, ospitate, allargate, mutate, portate uguale all'interno di Sant'Orsola, no? Certo, e questo direi che potrebbero essere le cose, insomma, non mi sembrano poche le potenzialità di Sant'Orsola. Io spero che mi abbiate sentito. Sì, ti abbiamo sentito, e niente, ora poi magari avremo anche modo più in là di parlare di un altro stabile che sta seguendo delle sorti che speriamo non auguriamo a Sant'Orsola. Sto parlando del Palazzo del Sonno, che viene inaugurato questo giovedì. Certo. Però magari con questa cosa ci sentiamo più con calma. Sì, bene, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie a Radio Bomba. Forse, non lo so, abbiamo forse un'altra domanda? No, Goffredo no, credo si commenta dopo insieme. Bene, grazie Ilaria. Bene, grazie mille. Ciao, a presto. Saluto a tutti, ciao. Allora, prendiamo il microfono a Goffredo. Sì. Allora, sì, vorrei a caldo commentare o aggiungere un paio di cose a quelle che diceva Ilaria Agostini, che credo non mi senta però, non mi sente più, credo, perché era al telefono, vabbè, avremo modo di parlarne in un altro momento. Beh, allora, intanto c'è una questione di fondo che lei ha richiamato, che io condivido, e altre su cui forse darei delle sfumature diverse, ma quella di fondo mi pare fondamentale, che è la seguente. E che anch'io avevo già richiamato precedentemente, che lei ha di nuovo messo in campo, cioè il fatto di chiedersi e capire in che modo un'amministrazione della città, al di là dei suoi colori politici, al di là dei suoi componenti, nel momento in cui si fa governo del bene pubblico, e insisto, Sant'Orsola, come tanti altri edifici di cui stiamo parlando, è un bene pubblico, è un bene comune, è un termine molto bello, per niente retorico, in che modo utilizza questi beni a favore o nell'interesse della comunità degli abitanti. Allora, in questi termini, la cosa che richiamava Ilaria Agostini e che richiamo anch'io è questa apparente carenza, non voglio dire mancanza, ma forte carenza di strategia, e di demandare al privato l'invenzione di una funzione o l'invenzione di un riutilizzo di un edificio. Questa è una cosa gravissima, secondo me, perché se un'amministrazione, se una città, se una comunità non si dà una strategia, che poi cerca di perseguire con pazienza, con calma, negli anni, facendo fronte man mano a tutta una serie di necessità o anche di ricerca di risorse, beh, questo è un tema fondamentale. Esattamente quello che non è successo nel caso di Sant'Orsola, al quale è stato invece riservato, e se ne vedono gli cioè nulla, il disastro, un destino in cui volta dopo volta si è cercato di demandare a qualcun altro, con qualche aggiustamento, dico, il tentativo di recuperarlo, di attribuire funzioni a quell'edificio. Allora, questo è un punto. Il secondo punto fondamentale, però, su cui vorrei introdurre una sfumatura, anche questa è molto delicata, è che questa città non può permettersi più in nessun modo, al di là dei punti di vista, al di là dei progetti, al di là delle funzioni che verranno attribuite a questo come ad altri edifici, che questi edifici rimangano chiusi, che rimangano fermi per decenni. Cioè quello che ad esempio col Sant'Orsola Project abbiamo tentato di fare in più di un'occasione, con le nostre risorse, con le forze che abbiamo, che sono evidentemente molto limitate, è quello di tentare di introdurre in questa città, che non l'ha ancora apparentemente capito, l'idea, e nel caso di Sant'Orsola un'idea pratica, facile, fattibile, praticabile tutti i giorni e tutte le mattine, che questo edificio, indipendentemente dal percorso che avrà, dalle risorse che avrà a disposizione per essere recuperato con una serie di funzioni, possa già in molti suoi spazi essere utilizzato. Quello che in tantissime città e in altre situazioni viene fatto, che noi architetti urbanisti chiamiamo il tema degli usi transitori e temporanei, è un tema che a Sant'Orsola sarebbe assolutamente straordinariamente fattibile e interessante. Parte dell'edificio a piano terra, dico una parte, sarebbe già utilizzabile, un'altra parte potrebbe esserlo con una serie di interventi di messa in sicurezza, diciamo, o di impianti a costi relativamente molto bassi, e questo permetterebbe ad esempio una cosa fondamentale che sfugge ai nostri amministratori, e non capisco come possa sfuggirgli, perché sarebbe un'idea facile da applicare e di grande successo e anche a loro vantaggio, se così posso dire, cioè quella che con poco si potrebbero introdurre delle funzioni transitorie in modo tale che un edificio come Sant'Orsola, una volta al mese, una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, sia aperta per una serie di funzioni evidentemente di carattere culturale, perché il suo destino è questo. Se poi una volta c'è un concerto, se poi una volta c'è una lettura, una presentazione di libri o di poesie, se un'altra volta c'è uno spettacolo teatrale o la proiezione di un film, questo sarà da vedere. Ma questa sarebbe una cosa che noi abbiamo dimostrato fattibile, perché la cosa che interessa a Sant'Orsola Project è quella di rendere concrete alcune operazioni, al di là del modo con il quale poi possono essere narrate alcune vicende della città. Allora, su Sant'Orsola noi abbiamo organizzato... No, ma questa cosa è successo di fatto? Certo, è successo, e questa è la cosa che mi interessa, che non è qualcosa che uno dice si potrebbe fare, è stato fatto a risorse praticamente equivalenti allo zero, è stato fatto con la collaborazione delle comunità, degli abitanti, di tutta una serie di persone che vivono nel quartiere, è stato fatto con il contributo sostanzialmente gratuito, come potete immaginare, di una serie di artisti, di musicisti, di scrittori, e di teatranti e quant'altro, e nel 2014, quindi ci è passato abbastanza tempo, abbiamo organizzato una 3-4 giorni che è stata la prima volta in 40-50 anni nella quale Sant'Orsola, questo enorme scheletro cementizio, insisto, a poche centinaia di metri dal Duomo di Firenze, si è aperto attraendo una quantità incredibile di persone e mostrando, se mai ce ne fosse bisogno, l'altro punto che veniva sollevato sia da Ilaria Agostini sia da me nella introduzione, chiamiamola così, e cioè il fatto che c'è una fame di spazi di questo genere, c'è una necessità di spazi di questo genere nel centro storico di Firenze, forse ancora di più che in altre aree, proprio perché il centro ha subito, come veniva ricordato, una modificazione pesantissima, un processo continua e lunga, un processo tuttora in atto, come noi sappiamo, per cui le poche isole ancora disponibili per questo tipo di utilizzazioni di potenzialità, Sant'Orsola è sicuramente una di queste, se non la più candidabile, se vengono perse dalla città, si perde un'occasione straordinaria, unica, irripetibile per la città, per l'amministrazione, per la comunità dei residenti, di avere a disposizione uno spazio di questo genere che, e chiudo, non è incompatibile anche con una parziale utilizzazione chiamiamola così, privata di questo spazio. Sant'Orsola è enorme, sono 17.000 metri quadri. Nessuno pensa di fare 17.000 metri quadri di spazio pubblico per, come dire, per attività culturali. Ma certamente riservarsi e finanziare un'operazione come questa, anche con il contributo di alcune attività private, per far sì che la maggior parte di questo bene resti di funzioni e di usi pubblici, comuni, culturali, ricreativi, se poi sono la scuola materna, se poi la piscina, se poi la piazza pubblica, se poi sono attività, piccole attività di carattere artigianale e commerciale, ognuno può avere delle idee e c'è spazio per tante di queste idee, ma questo è un dato fondamentale. Un ultimo punto, lasciatemi richiamare e poi vi do la parola. Nell'ipotesi di recupero e di restauro dei tanti progetti possibili, come dicevamo prima, non c'è solo la questione dei 25 o dei 30 milioni di risorse. Questi sono necessari se pensi a un progetto con determinate caratteristiche e requisiti. Ma esiste una cosa che noi abbiamo, come dire, denominato nel nostro lessico familiare come recupero povero, che non vuol dire recupero a basso prezzo, vuol dire un recupero che parte attraverso una serie di operazioni graduali che, come è avvenuto in tante città e capitali europee, riprende, rimette in vita, rigenera, rivitalizza degli edifici o abbandonati o da molti anni non utilizzati, man mano recuperandone dei pezzi e delle parti anche con delle operazioni a risorse molto basse e man mano andando avanti nel processo di recupero. Allora, anche questo è un tema fondamentale. Non è detto che Sant'Orsola o altri grandi edifici di Firenze che hanno un problema di grandi investimenti debbano essere presi tutti insieme come dire, con un investimento milionario. Si possono fare delle operazioni più piccole, più graduali, e questa è una cosa concreta, che partono dal basso con il coinvolgimento delle popolazioni locali, con un processo di partecipazione che permetta di tarare e mettere a punto una serie di funzioni adatte per il quartiere, adatte per quell'edificio, e che evidentemente vadano anche un po' al di là del catalogo assai ristretto di tutto ciò che riguarda solo turismo, mercato e annessi e connessi. Cioè, c'è una carenza di fantasia nei nostri amministratori che rischia la demenza colpevole. Allora, ci risentiamo fra pochissimo, solo una canzone. Sì, pensavamo di fare così, dato che si vede qua tra tutti i fuochisti presenti questo pomeriggio, insomma, tutti scalpitano, no? per fare interventi e domande, eccetera, eccetera. Il tempo stringe, mandiamo un pezzettino per dare un po' di ritmo a questa puntata, dato che siamo in radio. Via. I Calexico. C'è il concetto tra poco. In the hills with a tall weed grows. soul is bare. Feels the weight of truth. All left behind, no choice but to run to the mountains where no pop is grown. You have to hit the ground. Rieccoci, voilà. E buono, lascio la parola agli urbanisti e agli addetti ai lavori. Abbiamo qua il nostro amico Olmo, va bene, Olmo. Eccolo qua. Ciao a tutti. E ho ascoltato nell'ombra il dibattito di oggi e molta ombra. Quello che volevo, diciamo, sui punti su cui diciamo che sono stati gli ultimi a essere trattati, credo che siano appunto quelli fondamentali, ma credo che vadano messi in una prospettiva, almeno la mia visione è un po' meno, diciamo, deterministica della cosa. E dunque appunto il tema edifici abbandonati e il tema scelte dell'amministrazione. È vero che appunto tutti questi grossi complessi hanno patito anche strutturalmente in quanto edifici, soprattutto per l'abbandono a metà dei cantieri, quindi è vero che l'abbandono porta alla perdita di questi beni e che debbano essere recuperati. È vero che le amministrazioni sono state latitanti e si faceva il confronto appunto con l'esempio delle murate. Però è anche vero che nel passare del tempo tra il progetto delle murate e quello di Sant'Orsola c'è un cambio ideologico abbastanza forte in quello che è l'Italia tutta e le amministrazioni fiorentine in particolare, che è vero che si trovano a corto di risorse, ma è anche vero che le risorse poi le tirano fuori per interventi per esempio infrastrutturali o per opere, insomma, rivediamo, insomma, 30 milioni all'amministrazione di Firenze per un luogo centrale, un intervento potentissimo, potrebbe anche trovarli con progetti dall'Europa, insomma, si può fare. Però c'è un po' una scelta strategica di quali sono gli interessi e addirittura io azzarderei, appunto, parlava Ilaria Agostini di tutti questi complessi, delle potenzialità di questo luogo centrale accanto al Duomo, sull'asse di San Gallo, che su cui si sta sviluppando un nuovo asse turistico, evidentemente, basta, come tutti sappiamo, ormai ci abbiamo fatto un po' il naso, no? Quando vedi il negozietto, il ristorantino vegano con la copertura di legno, di solito vuol dire che lì sta per arrivare la gentrificazione. E l'asse di San Gallo è sicuramente la prima candidata del centro per adesso. Quindi l'impressione è quella che l'amministrazione voglia tenere questa spada di Damocle di Sant'Orsola sul quartiere e mantenerla fino a quando non scatterà il momento della speculazione. Cioè l'impressione davanti alla possibilità di aprire i locali al piano terra e davanti alla scelta invece di mantenerlo come un vuoto, di non intervenire, di lasciare quelle strade, da una parte appunto fa pensare alla volontà, dall'altra fa venire timore di quello che sarà poi l'effetto, perché un intervento di questa dimensione poi si espande a macchia d'olio sull'intero quartiere. Allora io per esempio come residente, è vero che via Panicale e tutte queste vie sono considerate il Bronx del centro storico, è anche vero che io come residente sono le uniche vie dove mi sento a mio agio. Io pure, quindi mi ci sento molto bene perché sono gli unici posti dove non mi sento diciamo sequestrato dalla città vetrina. Sono le uniche vie con dei profumi veramente variegatissimi e buonissimi, esatto, esotici di centro. E un intervento, appunto, è giusto intervenire, però bisogna secondo me valutare come. Cioè in un centro storico che è già diventato una monocultura del turismo, queste ultime potenzialità che vengano utilizzate, cioè mettere in sicurezza gli edifici sì, ma se il piano dell'amministrazione è inserire delle scuole private, fare il museo della Mona Lisa e dei dormitori per studenti come stanno nascendo, e ne parlavamo prima, in tutta la città, stranieri, studenti di lusso, questo comunque ha un impatto anche al suolo. Basta vedere, abbiamo tantissimi esempi di spazi pubblici che sono proibitivi, cioè basta vedere anche il caffè delle Oblate che si è trasformato da il caffè della biblioteca comunale al caffè dei turisti che vanno a vedere il Duomo. Quindi io direi appunto in questa operazione forse c'è da valutare il bilancio fra il valore di riportare uno spazio alla città e un possibile effetto di togliere ancora più spazio alla città. Allora, io non ho credo di aver capito bene cosa intendi dire, e penso anche in parte di condividere un filo di questo pensiero, però sono in una fase della vita, io sono più vecchio di te, gli ascoltatori non lo sanno, ma possiamo dire molto più vecchio di te, in cui come dire, mi appassiono di più ai modi con i quali una situazione possa essere recuperata dalle persone, e forse mi appassiono di meno alla poesia o anche se vuoi alla leggerezza di alcune situazioni, perché io abito in via Panicale, quindi immagina se non conosco questo tipo di situazione, questo tipo di odori, di profumi e di atmosfere. Però è anche vero che io non sono contento che da 40 anni, 50 anni Sant'Orsola sia lì abbandonato. Nessuno. Non sono contento del suo degrado, non sono contento del suo intorno. Quindi va trovata una nozione, una narrazione più razionale che ci faccia capire meglio alcune cose. Allora, quando io prima ho provato a introdurre la nozione di recupero povero, ad esempio, credo che questa possa essere una, non l'unica, di quelle che vanno in questa direzione, e cioè del fatto che evidentemente il recupero di alcuni grandi complessi come Sant'Orsola non per forza debbano passare attraverso il filtro di un certo tipo di recupero, di un certo tipo di investimento, di un certo tipo di funzioni, ma che possano trovare delle mediazioni assai interessanti. Il tema di fondo qual è però? Che se e fino a quando non si capisce, dal mio punto di vista evidentemente, che il concetto di recupero non è solo il recupero dell'edificio, non è solo il recupero delle murature o degli spazi, è il recupero di un tessuto sociale, è il recupero di una dimensione complessiva, in questo caso riguarda il quartiere di San Lorenzo. Allora, se non si mettono insieme il recupero del tessuto sociale e il recupero, diciamo, edilizio, spaziale, si crea ingiustizia. E quello che è esattamente, ma si crea ingiustizia sia se le cose le lasci così e sia se le cose le mandi nella direzione dei turisti soprattutto o delle vetrine incantate. Allora, io penso che nel caso di Sant'Orsola ci sia un'ultima straordinaria occasione, sono testardamente, ostinatamente non del tutto pessimista sul fatto che si debba spingere, premere in questa direzione. Attenzione, ovviamente chi è che spinge in questa direzione? L'amministrazione è chiaro che no. Questo, sono anni che l'amministrazione si muove in direzione altra. Allora è chiaro che o interviene in maniera pesante, convinta, convincente l'insieme degli strati, delle persone, degli intellettuali, degli artisti, dei residenti, eccetera, che obbligano in qualche modo, come in qualche caso è successo, che attraverso un processo lento, faticoso di partecipazione, di spinta, che però parte dal basso, va nella direzione di recuperare e riorientare il recupero di questi edifici in un certo tipo di direttrice, o altrimenti questi fanno come gli pare, questo è ovvio. Allora però ci tengo a dire quello che dicevo prima, che però tra il recupero, per quanto possiamo discuterne, del Palazzo del Sonno a dormitorio per studenti mediamente arricchiti o ricchi, 1000 euro al mese, europei, e Sant'Orsola però, c'è il giorno e la notte. Cioè io posso essere critico verso l'operazione Palazzo del Sonno, ma non stiamo parlando della stessa cosa. Cioè il ruolo, la funzione, l'identità che ha l'eventuale recupero e le funzioni che ci possono andare dentro di un complesso come Sant'Orsola rispetto a un edificio come quello sul viale dove poi è stata fatta questa operazione di trasformazione di intervento, sono due operazioni completamente diverse, completamente opposte. Allora, sto rivendicando il fatto che dentro il centro storico di Firenze, che già ha subito una trasformazione epocale, la sta tuttora subendo riguardo ai flussi di turisti, alla quantità di persone, alla modificazione del tessuto sociale, ai nuovi residenti che non sono più di un certo genere, agli affitti pazzeschi, alla mancanza di case e negozi, eccetera, eccetera. Bisogna dare una risposta che mantenga, recuperi e dia la possibilità di essere utilizzata in un certo modo alle ultime isole, le chiamo così per farmi capire, che sono rimaste all'interno del centro storico. Certo, se si perde questa occasione, se Sant'Orsola dovesse diventare l'ennesimo albergo di lusso o l'ennesimo supermercato senza essere supermercato di non so quali improbabili commercianti, eccetera, ma non credo, non credo. È chiaro che questo sarebbe una sconfitta pazzesca. Però quello che dico è: non bisogna interrompere di spingere, pressare nella direzione di immaginare che esiste un modo da parte dell'urbanistica, da parte dell'architettura, per fare delle strategie intelligenti. Cioè non c'è solo un modo cattivo, non c'è solo la speculazione. È quello che facciamo in tutti gli spazi occupati e insomma siamo abbastanza coscienti di cosa significa recupero povero, basta guardarsi intorno. Ma c'è un tema che insomma, poi è quello del risarcimento. Abbiamo abbastanza la città ci deve risarcire dopo che per decenni ci ha sottratto delle cose. Chi è che ci deve risarcire? Ci deve risarcire coloro che ce l'hanno sottratte, quindi in qualche modo tutti gli sforzi che un'amministrazione, che un governo o che un ente o che coloro che fanno mettono in campo dei finanziamenti, ma anche dei soggetti privati, anche i soggetti privati possono risarcire una città. Stai parlando di un danno erariale? No, sto parlando di un risarcimento che riguarda la memoria, che riguarda l'uso, che riguarda le potenzialità di uno spazio. Non mi riferivo tanto a una questione di carattere legale, mi riferivo più a una questione di carattere ideale. Ok, bene. Forse sì, se non abbiamo altre domande, se no passiamo a un pezzo, perché un bel pezzo musicale. Abbiamo fatto una bella intervistona. Wombat. Eccolo, arriva? Doveva arrivare. Vai. People too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. When I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Mess around. Anche le foche bevono Radio Wombat. Eccoci qua, tornati. Prima di salutare Goffredo, ci vuole fare una lettura? No, più che fare una lettura, mi piace che qualcuno legga quelle che sono poche righe, che sono rimaste intatte da qualunque spray, da qualunque scritta, eccetera, sulla facciata di Sant'Orsola, in via Panicale, e sono le righe che noi avevamo scritto nel 2014, quando per la prima volta dopo decenni avevamo aperto per 3 giorni Sant'Orsola. E la dice lunga questa cosa sul fatto che nessuno abbia avuto voglia né di cancellarle, né di attaccarci sopra manifesti, né di farci delle altre scritte, perché evidentemente ancora raccontano una storia alla quale può essere interessante credere, di quello che può essere il destino di questo grande complesso. Ve le faccio leggere, vi ringrazio della pazienza e vi saluto. Ci sono luoghi scomparsi dalle mappe della città, dalla memoria degli abitanti e dalla loro vita quotidiana. Spazi che hanno dimenticato il rumore dei corpi, dei gesti e delle voci. Luoghi chiusi, inaccessibili, divenuti nel tempo volumi e superfici inospitali, figure invisibili. Hanno spezzato la storia e la bellezza, l'immaginazione e il paesaggio, ma noi non ci rassegniamo. Il cambiamento partirà dalla rigenerazione di questi luoghi e dalla capacità collettiva di recuperare gli spazi instabili della città, divenuti per molti orizzonti ambigui o violenti. Il cambiamento avverrà quando i flussi e le diverse identità della città torneranno ad abitare questi luoghi. Il cambiamento trasformerà questi spazi in luoghi di scambio e di condivisione, aperti alla rigenerazione degli usi e dei significati, a nuovi linguaggi e relazioni. Facciamo entrare il futuro della città dentro Sant'Orsola, nel quartiere di San Lorenzo, dove viviamo. Bene, con questo salutiamo Goffredo e magari a presto. Ci sarebbero tantissime cose da dire sulla... però magari avremo modo di rincontrarci ancora, chissà. Detto questo, andiamo avanti col programma. Diamo un microfono al nostro regista, che altrimenti non sa come fare. Ciao. Bentornato. Rieccomi. Ciao, belli. Allora, ciao. Grippo. Allora, caro. Cosa abbiamo in programma? Senti. Avevo sentito un eco da lontano. Allora. È vera questa cosa? Come? Un eco da lontano che arriva da est. Ah, un eco da est, dici? Mm. Sì, diamogliene di est. Quasi, diciamo, ora, non, via, eco, sì, sì, arriva da lontano. Perché il nostro l'eco di un urlo. Perché il nostro amico Tuco non è presente quest'oggi in puntata, ma è comunque attivissimo e ci ha mandato una registrazione del nostro amato Yuri. Urlo dei Balcani. Andiamo a sentire Yuri cosa dice quest'oggi. Vai. Yuri! Oh! Cazzo! Vai dai che comincia! Piccoli problemi tecnici per i nostri amici bombati. La caverna oggi è piuttosto scomoda. Cade roba. E cari wombattosi ascoltatori, eccolo. Eccoci qua con l'ora dei Balcani di questa settimana. Splende un sole meraviglioso fuori e vi porto insieme al sole una bella notizia che arriva da, proprio dai Balcani. Come sapete non è un bel momento storico, anzi, tutt'altro, non solo per la nostra penisola dove abbiamo visto quale governo si è formato e quali già i primi risultati giù nel sud della nostra penisola, dove ci sono spari sui migranti, forse i primi, speriamo gli ultimi, ma non solo, come già sapete da tempo nei Balcani sono stati costruiti dei muri per impedire ai migranti, ai profughi di guerra di arrivare in Europa e di entrare nei paesi come l'Ungheria o la Croazia. Ma vi porto un bel esempio invece dalla Bosnia Erzegovina. Ebbene, nella Bosnia arrivano notizie di aiuti da parte delle persone normali. Certo, il governo ha anche intimato, anzi, ha anzi intimato di non aiutare i migranti, ma memori di ciò che ha passato questa nazione, i cittadini hanno detto no. L'articolo che da cui arriva questa notizia è dall'Osservatorio Balcanico, dove ho trovato questo link, dove potete trovare tante notizie su tutti i Balcani. In particolar modo balcanicaucaso.org è l'articolo che ho trovato e che racconta questa bella storia, e inizia con: gli uomini sono come l'acqua. Ricordatevi questo, gli uomini sono l'acqua, perché ne riparleremo dopo. Trovano sempre la strada, l'acqua trova sempre la strada tra gli anfratti e gli uomini lo stesso, perché appunto questa, diciamo, nuova strada per la Bosnia Erzegovina per arrivare in Europa. È quasi impossibile, l'Unione Europea ha reso quasi impossibile, grazie agli accordi con la Turchia, nella Grecia, a cercare di far arrivare i migranti in Europa, ma come sappiamo non è una questione che si può fermare. La gente scappa dalla guerra, dalla fame, dalla povertà, e quindi non bastano queste cose per fermarle. A Sarajevo hanno cominciato infatti ad arrivare con la primavera nei primi gruppi, e centinaia di persone piano piano di migranti. Secondo le stime ufficiali, nel territorio tra la Grecia e la Bosnia ci sono circa 50.000 migranti che prossimamente cercheranno di entrare in Bosnia per proseguire verso l'Unione Europea. Ci sono nel centro di Sarajevo, campeggiano già circa 300 persone che soggiornano all'interno di tende o ripari di tende di nylon o ripari improvvisati. Si sono sistemati nel parco di fronte alla Vijeknica, che una volta era praticamente la sede della Biblioteca Nazionale. Famosa storia, già vi raccontai, di Sarajevo, della Biblioteca Nazionale che fu bombardata quando feci proprio la puntata su Sarajevo. E oggi è un salone per le cerimonie solenni. Proprio in questi giorni, peraltro, nella villa si è tenuto il ballo di gala della diaspora bosniaca. Diaspora vuol dire, come tutti ben sapete, alla fine si collega proprio alla migrazione, quindi l'ironia della sorte, i primi gruppi di migranti che si posizionano davanti al posto dove c'è il ballo della diaspora. Gli ospiti che dopo aver festeggiato sono usciti dal palazzo sull'altra sponda del Miljaccia. Hanno visto altri ospiti non invitati, i migranti che dormono, come dice l'articolo, che dormono per terra, girano scalzi, mangiano quello che ricevono dai sarajevesi e fanno i bisogni dove capita. Questo è quello che dice, ma questa cosa non ha fermato invece la solidarietà dei bosniaci. La gente locale si è messa subito quindi ad aiutarli e le hanno portato cibo, vestiti e li hanno accolti anche nelle loro case. Sono stati sistemati anche negli ospedali, sono stati offerti anche dei soldi. Ci sono anche dei gruppi di volontari di organizzazioni però non governative che cercano di aiutare e regolare e organizzare questo flusso che sta cominciando ad arrivare in Bosnia. Per 2 mesi le autorità hanno fatto finta di non vedere niente, ma il numero sta aumentando, anzi le stime dicono che crescerà molto e la situazione quindi comincia a muoversi e il governo ha lasciato alcune comunicazioni. Il Ministero del Lavoro, gli Affari Sociali e il Ministero degli Affari Sociali e dei Rifugiati ha ammonito i bosniaci erzegovesi di non andare in alcun modo assistenza ai migranti. Ma i bosniaci li hanno riso in faccia perché hanno ancora, dice l'articolo, hanno ancora fresca la memoria del proprio calvario. Sanno bene cosa significa essere profughi. Cito: non c'è nulla di bello nello status di migrante e nulla di positivo legato al termine stesso. Migranti, profughi, immigrati, tutte queste parole evocano significati come brutto, sporco, straniero, criminale, pericolo, islam, terrorismo. Abbiamo difficoltà ad estenerci dall'aiutarli? Non possiamo guardare all'altra parte per non vedere la loro miseria, non ci va ad ignorare i loro bisogni, non possiamo non simpatizzare con la gente che scappa dalle guerre e dall'ingiustizia. Continua l'articolo, racconta appunto del sentimento di non voler astenersi dall'aiutare, ricordandosi proprio tutto quello che hanno passato nel novembre del 92, quanti campi di concentramento, quelli territori della bosniaci vennero scoperti. Si è tardato per mesi prima di chiuderli e lasciare i detenuti perché i governi europei e gli altri paesi non riuscivano a mettersi d'accordo sulla quota, no? Già, di cui abbiamo sentito tanto parlare, delle quote dei migranti e i paesi che li rifiutano. Ecco, anche all'epoca, anche nel 92, questo accadde, ma sulle spalle dei bosniaci. D'aumento dei migranti in Bosnia si comincia a parlare però ora dei confini. Quelli orientali verso la Serbia e il Montenegro, che da quando è finita la guerra non sono mai stati definiti, e soprattutto i barchi sono sempre stati poco sorvegliati, ora si vuole sorvegliarli, ma ci racconta questo articolo che comunque sono sempre stati lasciati liberi per far passare criminali di guerra, cioè, insomma criminali, e adesso che ci sono i migranti invece si cerca di mandarci la polizia. Eppure negli ultimi 25 anni appunto ci hanno circolato indisturbati, ci racconta l'articolo, sia i criminali di guerra che i comuni criminali, ecco, i comuni criminali. Mentre la merce di contrabbando non ha mai avuto problemi nel attraversare i confini, come pure intere greggi infette da brucellosi, la cui carne veniva poi venduta in Bosnia e Erzegovina come carne buona e locale. Quindi ci fu tutta questa scandalo della carne vendute malate in Bosnia, delle greggi importate da altri paesi malate. E poi continua: per non parlare del contrabbando di sigarette, non è mai cessato e continua alla grande con i camion. Non si è mai trovato il tempo nella voglia di definire linee di confine, di assumere il personale e di equipaggiare i posti di blocco, ma adesso che i migranti passano per la Bosnia e Erzegovina, pressano i confini dell'UE, ecco che i confini non custoditi e non sorvegliati diventano tema di dibattito, si cercano misure immediate. I migranti che arrivano nella Bosnia Erzegovina cercano di avvicinarsi chiaramente ai confini dell'UE, si concentrano nel nord-ovest del paese, vicino alla Croazia, quindi questo è uno dei punti nodali, la zona confinante che si chiama Krajina, che vuol dire limes, vuol dire confine, il territorio che nel Medioevo separava il mondo cristiano da quello musulmano. E nella scorsa puntata vi dicevo proprio terra di passaggio, perché era una terra che è sempre stata contesa fra i due mondi, fra Occidente e Oriente. Non a caso, da poco, il presidente turco ha fatto dei comizi anche in Bosnia, per rafforzare l'unione con la Turchia. Peraltro ci sono anche collegamenti con la Russia, proprio per far passare da lì altri e nuovi gasdotti per essere indipendenti. Questa è un'altra storia. Va bene. Di recente la Croazia ha annunciato l'intenzione di ospitare un deposito di scorie nucleari nella zona dove ci sono i migranti, una località a meno di 3 km dal confine con la Bosnia-Erzegovina. Il territorio è ricco di corsi d'acqua che costituiscono il bacino di utenza centrale per i fiumi Una e Kupa. Sono due gioielli naturali. Da questa zona più di 600.000 abitanti da ambedue le parti del confine, cioè bosniaci e croati, ricevono l'acqua potabile. Quindi questa zona tremenda dove arriveranno anche scuole nucleari è la zona dove si stanno anche un po' dove una parte di migranti stanno andando. Ci sono state chiaramente le proteste da parte della Bosnia per queste scorie, quindi vi sto raccontando non solo il problema dei migranti ma anche di un problema proprio di tutti i problemi che si legano poi a tutta questa cosa dei confini che sono e non sono stabili solo quando fa più comodo. In Bosnia si sta protestando contro il deposito delle scorie così vicino al confine e soprattutto vicino ai corsi d'acqua. Però adesso, appunto, com'è che si lega i migranti? Adesso che la Bosnia riceve i migranti e quindi diventerà in qualche modo qualcosa da controllare dal punto di vista dell'Unione Europea, allora si dà voce ai bosniaci e ai croati che stanno protestando contro Zagabria, che ha riavviato i discorsi sul vicinato. La stragrande maggioranza dei migranti si trova in Krajina, ha già provato a entrare in Croazia, alcuni sono arrivati fino a Zagabria, a Spalato e a Karlovac e Fiume, quindi quasi al nostro paese, ma la polizia croata li ha riportati nella zona di confine e li ha costretti a tornare in Bosnia, quindi li rispediscono in Bosnia, proprio come i francesi li rispediscono in Italia. E abbiamo una notizia proprio di ieri, no, del 31, che dei poliziotti croati hanno sparato su dei profughi uccidendoli. Molti migranti, tra l'altro, raccontano di essere stati picchiati, di essere stati sequestrati e di aver perso tutti gli oggetti personali, i telefoni, e essere rimasti senza nulla. Ciò è confermato anche dalla signora Sara Kekuz, attivista del Centro per le Iniziative di Pace di Sarajevo, che di recente ha visitato le zone di confine con la Croazia. I migranti che campeggiano nel centro di Sarajevo sono stati caricati sul pullman e portati verso Zlakovac, una località vicino a Mostar. Quindi vi avevo raccontato quindi di queste prime azioni sul fiume e dei primi arrivi, adesso sono stati spostati a Mostar. Mostar, la città del famoso ponte che divide la città fra musulmani e cristiani, che fu buttato giù durante la guerra civile. Ma la vera notizia, dice l'articolo, è che il commissario di polizia del cantone dell'Erzegovina Neretva, che si chiama Ligia Lasic, ha bloccato i pullman con i migranti, che venivano spostati per portare a Mostar, nel punto che si considera il confine geografico tra la Bosnia e l'Erzegovina, ufficialmente, perché non si vuole che la crisi migratoria si sposti dal cantone di Sarajevo, dove la maggioranza è costituita da bosniacchi, e l'Erzegovina, abitata per lo più da croati bosniaci. L'atto è qualificato come colpo di Stato, perché è contro la decisione del Consiglio dei Ministri, cioè del governo. Si crede che dietro alla mossa ci sia il presidente del partito dei croati bosniaci, chiaramente, Dragan Kovic, attualmente membro della presidenza tripartita bosniaca. Dopo 5 ore, dice, il pullman sono ripartiti e i migranti sono stati sistemati nel centro di accoglienza. Quindi si è in qualche modo risolta, però vediamo che ci sono anche delle resistenze anche in questo paese, dove invece i cittadini si stanno muovendo. Il presidente della Repubblica Serba, che è Dodik, Milorad Dodik, ha respinto ogni possibilità di accogliere i migranti nella zona. Ai bosniacchi conviene l'immigrazione di siriani, afghani e altri musulmani, sono popoli della stessa religione. Le autorità di Sarajevo stanno cercando di rafforzare con i migranti la maggioranza musulmana in Bosnia e Erzegovina. Queste sono le tremende affermazioni di Dodik. Infatti il ministro per la sicurezza bosniaco, che è Metcic, dice di avere notizie che la Serbia vuole liberarsi dei migranti e sta chiudendo i centri di accoglienza e in qualche modo li invia verso la Bosnia e Erzegovina. Cioè, pensate che delirio. Il presidente bosniaco invece, Zvidic, ha annunciato di voler presentare due note di protesta contro la Serbia e il Montenegro, che non sorvegliano a sufficienza i propri confini lasciando passare i migranti. E qui quindi di nuovo non è che dice aiutiamo, ma dice controlliamo di più il confine. Intanto i migranti dicono di trovarsi bene in Bosnia, lodano il comportamento dei cittadini che li aiutano, dicono che la polizia li tratta bene e alcuni chiedono la possibilità di fermarsi addirittura. Ignorano che la Bosnia-Herzegovina ha 25 anni dalla guerra, ci sono ancora 100.000 sfollati e 27.000 profughi nel proprio paese. Quindi uno Stato che ha ancora i propri profughi sfollati, emigrati in tutta Europa e probabilmente in tutto il mondo, trova la forza di accogliere migranti in fuga da altre guerre. Dovremmo probabilmente imparare molto da questo popolo. Vi lascio e mi ricollego all'inizio dell'articolo che vi dicevo, appunto, gli uomini sono come l'acqua, trovano sempre la strada, e vi lascio con il testo di Bistravoda, che vuol dire proprio acqua cristallina, dei Gruppa Regina. Wombat Wombat! Ciao robo bolice, ciao, suji e paljera, hoppa! Kriješ, draga, pitao sam da mi vrate ono vrijeme, da ne sate poveće, da ljubav miriše, tako kažu. E rieccoci, a rieccoli. Finite i Balcani, signori. Braccobaldo, ci sei? Ci sono, super carico. Ora abbiamo parlato di un sacco di cose serie. Senti qua che canzoncina si manda sotto. Classicone, ma sempre... Sempre verde. Sì. Quello che si definisce un evergreen. come evergreen è sempre la questione razzista in Italia, a quanto sembra. Sempre purtroppo, più verde, direi. Caccia la maiala. Sì. E abbiamo purtroppo da parlare di eventi spiacevoli, successi In Italia recenti. In Italia di recente, Calabria. Dove le persone evidentemente si sentono autorizzate o comunque protette nel momento in cui vanno a sparare a un immigrato. Si è registrato un altro morto del razzismo a Gioia Tauro in Calabria, purtroppo l'avrete letto sui principali giornali, anche se i principali giornali in realtà la notizia è scorsa abbastanza in basso. Sì, sì, come al solito queste notizie sono quelle che vanno via prima dalle prime pagine, se ci arrivano. Però di fatto è andata così. E se Salvini o Di Maio fanno una scureggia, invece ce lo scrivono immediatamente. E bellissimo, comunque il clima che si respira è tremendo. E però, nel senso, possiamo anche da Lercio ci arriva una notizia ottima in fonte particolare, Lercio, sì, ottima fonte di notizie per Radio Uomo. Assolutamente, è una notizia ci faceva notare Olmo, che è una notizia vecchia, riciclata del 2015. Del 2015 però, è riuscita adesso, ma direi che potrebbe tranquillamente essere uscita ieri questa cosa qua. Di ai fatto, mondiali di razzismo l'Italia parte tra i favoriti. Esatto. Perth, dopo mesi di trepidante attesa, prenderanno il via lunedì prossimo i mondiali di razzismo organizzati dall'Australia. La terra dei canguri si riempirà dai più becili nazionalisti provenienti da ogni parte del globo, che si daranno battaglia a colpi di insulti razziali in squadre composte rispettivamente da 10 persone l'una. Alcuni più offensivi, altri più intellettualoidi nelle giustificazioni, altri ancora semplicemente semi-analfabeti. La compagine italiana è partita tra le favorite, eliminando in agilità la Tunisia nella pre-qualificazione. Il capitano Matteo Salvini, indiscusso bomber della squadra, vola basso. Ci sono tante nazionali che fanno proseliti con luoghi comuni da molto più tempo di noi, ma questa è una squadra talentuosa e ce la giocheremo con tutti. E in effetti l'italica rappresentanza sembra veramente ben composta dopo mesi di selezione. Commentatori razzisti, militanti di Forza Nuova e leghisti sono lo zoccolo duro della squadra, con alcuni pentastellati a rafforzare una rosa già ampiamente competitiva. La prima sfida ci vede contrapposti all'India, un incontro non privo di insidie, che ci vede comunque partire in vantaggio. Nonostante i luoghi comuni su pizza, pasta e mandolino, i mesi passati a insultare il popolo nato sulle rive del Gange a causa dei due marò, ampiamente preparati, Giorgia Meloni e Tavecchio partiranno dalla panchina, con quest'ultimo che potrebbe entrare a partita in corso qualora ci fosse bisogno di frasi sconnesse. Se le cose dovessero mettersi particolarmente male, un contadino padano ha già dato la disponibilità a scoparsi una mucca come estremo ratio. Il cammino potrebbe complicarsi già nella sfida successiva, dove l'Italia con ogni probabilità dovrà affrontare gli USA. Gli statunitensi infatti dovranno affrontare il Kenya al primo turno, e la possibilità che il tutto si risolva velocemente con qualche colpo di pistola è dato a 1,20. Tuttavia la squadra forte d'oltreoceano potrebbe pagare la troppa omogeneità e prevedibilità dei suoi componenti con un gruppo di sceriffi texani. Una sfida alla volta, sottolinea Salvini, perché avremo tempo e modo di trovare epiteti fastidiosi nei confronti dei texani. Pensiamo all'India, andiamo a vincere per l'Italia e per i nostri marò. Ricordiamoci marò. Ponza sui marò. Vabbè. Ragazzi, Casbah. Questo è Rock the Casbah in onore dei marò. Comunque vediamo, proveremo a seguire l'Italia nei mondiali di razzismo. Ma appunto anche noi sosteniamo che abbiamo una buone possibilità. Sicuramente buone possibilità. Lì siamo piazzati veramente bene come paese. Non sappiamo invece per chi cavolo tifare dal 4 all'8 luglio ai mondiali antirazzisti. Mondiali antirazzisti. Torniamo nel serio. Sì. A Castelfranco d'Emilia, Modena, e ci sarà, organizzata da WISP, questa manifestazione dei mondiali antirazzisti, un'occasione bellissima con tante squadre da tutto il mondo. E beh, potremmo quasi cambiare l'articolo di Lercio, cioè nel senso sono tutti gli antirazzisti qua che si mettono insieme e formano squadre, tra i quali abbiamo una squadra a noi simpatica, vicina. a noi simpatica vicina, che è la squadra che fa il derby con il Lokomotiv de Grado, i grandi atletoni dell'Atletico de Grado. Atletico de Grado che attualmente è impegnata nel torneo di calcio da basso, che qui magari c'è una connection dietro l'altra. Sì, è vero. Veramente. Quale vogliamo seguire? Quella migrante o quella di pallone? Facciamo per adesso pallone, vai. Pallone. Perché parliamo di quello che sta avvenendo ed è avvenuto negli ultimi giorni. In quel del Dazzi Stadium, in via Pietro Dazzi, a Firenze, che c'è il torneo di calci dal basso, da cui... ora mi hanno mandato ora una foto di uno striscione al Dazzi Stadium. Volendo, c'è un altro argomento ulteriore da tirare fuori oggi, dove c'è scritto: non siamo in lutto, siamo in lotta. Un rimando alla giornata di ieri. No, per Bargellini. La giornata di ieri era sì, correva un anno dalla morte di Bargellini. Sì, vi è stato fra l'altro un'iniziativa al giardino Chelazzi in via dell'Agnolo, ha visto anche la partenza di un corteo che ha sfilato nel quadrilatero, negli isolati, veramente battuti quotidianamente da Lorenzo. E con Bargellini ci ricorreremo anche a Inchiostri Ribelli, che è un'altra cosa che c'è stata nell'ultimo periodo. Ma restiamo ancora sull'argomento pallone. Abbiamo scelto di affrontare per primo l'argomento pallone, ora non facciamo troppi salti. Vero. Argomento pallone. Si sono svolti i gironi A, B, C e D. Il primo, purtroppo sono stati eliminati gli Lokomotiv de Grado, nonostante... immeritatamente, sì, si può dire. Grossi meriti sul campo, soprattutto morali. E anche i Dai Boschi, anche loro hanno combattuto estremamente, ma sono passati lo stesso i Dinamo Dazzi, i padroni di casa, e l'Atletico Pompa. Girone B invece si è svolto tra Riso Patate e Cozze, Atletico De Grado, La Crepa e Frammenti e Trame, che attenzione è stato eliminato alla fase a girone. Squadra finalista l'anno scorso, Frammenti e Trame. Molte volte finalista o comunque molto avanti nel torneo, è stata eliminata questa volta nei gironi di qualificazione e quindi sono passati Riso Patate e Cozze e Atletico De Grado. Per quanto riguarda il girone C invece abbiamo il Galluzzo Rebelde e Mondeggi, che sono passati alla faccia di CPA e K100, che sono andati invece fuori. Nel girone D invece abbiamo i Le Boschi e i Mai Più Sui Banchi, che sono passati alla fase successiva, mentre lo Scarsenal, grande nome tra l'altro, non mi è dispiaciuto, mi ha fatto ridere sempre, e il Novoligrad sono purtroppo costretti alla resa. E i quarti di finale saranno, ci sarà una divisione in due gruppi. Nel primo gruppo avremo Riso Patate e Cozze, Ricreativo Rebelde o Galluzzo Rebelde, Dinamo Dazzi e il Le Boschi. Dall'altra parte invece l'Atletico Pompa, l'Atletico De Grado, Mai Più Sui Banchi e Mondeggi, per quella che si preannuncia insomma un finale scoppiettanti, un finale di fuoco. Quarti che si giocheranno immagino il prossimo fine settimana. Allora, i quarti si giocheranno domenica 10. Non il prossimo, quello dopo. No, è questo domenica 10. È vero, è questo, è vero. Oggi è che passa il tempo e che non ce ne rendiamo manco conto. Per poi, grande finale, sabato 23, in occasione del compleanno dell'occupazione del Cerco Rivolta, con insomma finalona di calci dal basso e poi grande festa, tutti invitati, viva viva, festeggiamo. Non mancheremo, viva calci dal basso, viva lo sport dal basso in generale. E niente, torniamo ai temi infausti. Andiamo sui temi belli, dai. Andiamo sui temi belli. Diciamo, parliamo un pochino di Inchiostri Ribelli, che c'è stato, anche se ne abbiamo ampiamente parlato nella scorsa puntata presentandolo. Andiamo a testimoniare un'ottima riuscita di tutta quanto la manifestazione in tutti i suoi quattro giorni, nonostante il fine settimana non fosse dei più favorevoli con il 2 giugno e la possibilità di andare al mare per diversi, si sono tenute un sacco di cose molto interessanti. Abbiamo assistito a un giovedì 31 maggio alla Polveriera, molto intenso e pieno di spettacoli teatrali. C'è stato un bellissimo spettacolo Kriuk dei Teatri della Viscosa alle 18.30, c'è stato, tanto non è inutile dire gli orari perché tanto non ci potete andare adesso, cioè, ve lo siete persi. E vero, un'ottima partecipazione. Lo spettacolo La Marea c'è stato dopo, sempre con un'ottima partecipazione. E poi il concerto serale degli Upanishad. Venerdì invece si è svolto il tutto fra l'occupazione di Via del Leone e Piazza Tasso. Piazza Tasso che vedeva in concomitanza anche il mercato contadino. È stato veramente bello vedere accanto ai banchi del mercato, ai banchi di Inchiostri Ribelli. C'è stato il torneo di calcio in Piazza Tasso, vinto da il Regno delle Due Sicilie, questa anche formazione, anche lì tasso tecnico altissimo cioè... decisamente. La serata di venerdì poi si è vista, è andata all'Emerson per poi cambiare location sabato e domenica in Viale Corsica, anche in questo caso il sabato presso l'Aria Cani, che è un punto importante della lotta dei compagni corsici. E domenica ero presente anch'io e ho avuto l'occasione di assistere alla presentazione dell'almanacco Cronache Ribelli, del quale abbiamo letto un piccolo estratto giusto a inizio puntata. Si tratta di un almanacco che quasi per ogni giorno dell'anno ripropone eventi storici che non fanno parte della grande storia, cioè della storia che va sui libri di scuola, ma è la storia che tendenzialmente viene sommersa, viene nascosta. Loro si propongono di... loro è una pagina, a partire da una pagina Facebook, Cannibali e Re. Se ci stanno ascoltando probabilmente mi vorranno scotennare, perché probabilmente sto dicendo una serie di castronerie enormi, ma non vi preoccupate perché ci siamo ripromessi di invitarli in trasmissione e quindi avrete presto modo di conoscerli in modo più approfondito. Da sottolineare, perché era la cosa in assoluto più importante di Inchiostri Ribelli sicuramente, era insomma la destinazione di tutti i fondi raccolti in questi giorni, che saranno impiegati per le spese legali dei compagni di Piacenza che si erano opposti all'apertura di Casa Pound con una manifestazione tentando di forzare il cordone della polizia per raggiungere quelli di Casa Pound, e i compagni di Lucca che hanno occupato e sono stati sgomberati malamente poco dopo. Quindi sempre l'anno scorso invece era stato per la crepa, per Toselli, sempre temi caldi e utili nelle destinazioni dei vostri soldini quando andate a tatuarvi qualsiasi bello ribelli, segno sulla pelle, o anche quando andate a prendervi qualcosa da bere, non mi ha detto vi dobbiate proprio per forza tutti quanti tatuare. E tutto l'incasso è andato in benefit. Tutto quanto è andato bene, è andato in benefit. E manco a farla apposta. E di cos'altro possiamo parlare? Poi io lancerei anche un pezzettino per spezzare, per poi andare a parlare dell'ultima fase. Avevamo promesso settimana scorsa che avremmo parlato della questione inceneritore con una mamma da inceneritore, che speriamo di braccare al telefono di qui a poco. Un'ultima cosa io lo volevo dire prima di passare al pezzo dell'inceneritore, e mi riaggancio un po' ai compagni fermati che, facendo un salto spaziale, non stiamo parlando di quelli che vedranno poi il benefit di Inchiostri Ribelli devoluto, ma dei compagni che sono stati fermati sulle Alpi a cavallo fra l'Italia e la Francia. Sto parlando di Leonora, Theo e Bastien, che erano stati fermati il 22 aprile perché avevano sfidato le autorità francesi e italiane, passando collettivamente insieme a migranti la frontiera contro i blocchi polizieschi che rendono mortali i valichi della frontiera in Val di Susa in Francia. Sappiamo bene, abbiamo sentito i compagni di Brise le Frontiere nelle puntate scorse, li abbiamo intervistati, sappiamo bene la situazione, qual è lassù, Nella una delle ultime manifestazioni, appunto, era stato valicato il confine con all'interno di un grosso gruppo di manifestanti, di attivisti, dei migranti. Tre attivisti sono stati fermati, sono stati liberati lo scorso 31 di maggio dalle misure cautelari. Esattamente, loro, il tribunale di Gap ha disposto la liberazione delle misure, dalle misure cautelari per Leonora, Teo e Bastien. C'è stato fra l'altro un presidio sotto la questura di Gap, che è una cittadina francese appena oltre la frontiera, e questo ci introduce a un evento che si svolgerà questo fine settimana proprio lassù sulle montagne, e si sta parlando del campeggio Passamontagna, campeggio itinerante che si svolgerà da venerdì 8 giugno a domenica 10, con un itinerario vero e proprio, partenza da Melzette, che se non mi sbaglio è sul territorio italiano, e con addirittura un dibattito sulla pericolosità della frontiera, l'inferno libico alle frontiere, dall'inferno libico alle frontiere metropolitane. Sabato ci sarà una camminata, e venerdì anche una pulizia dei sentieri, poi ci sarà sabato una camminata, di nuovo un dibattito sull'accoglienza e lo sfruttamento, la domenica un'ulteriore camminata fino ad arrivare a tornare a Brianzon, e poi appunto a Brianzon un ulteriore dibattito sulla fascistizzazione della società e confronto tra le esperienze di lotta contro le frontiere. Naturalmente il tutto è autogestito. Quindi insomma, sono stati organizzati delle navette, sono state organizzate per agevolare gli spostamenti. Scusa se ti interrompo, ma se volete informazioni maggiori su questa cosa potete andare mercoledì 6 in quel meraviglioso posto della polveriera, perché ci sarà con il No Borders un incontro preparativo al campeggio itinerante di cui sopra, insomma, di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Verissimo. E quindi tutti questi dettagli che stavi dicendo potete chiederli molto meglio mercoledì. Alle ore? Dai, porca troia. Alle ore 18. Alle ore 18, sì. Benissimo. Lo leggo qui. 18, 18 e 30, diciamo. Allora, quindi noi si è detto un pezzo e poi rimanete in onda perché abbiamo una corrispondenza importante. Viva! Shut the gate, shall I ask him who is on top? Chang and keep us from the roaring waves. Get around the void, but forever we'll be free. So sail away. Siamo tornati per questo fine puntata, ma le informazioni non sono finite qua. Perché l'avete probabilmente già letto su qualche grande giornale, magari l'avete già sentito Radio Wombat, perché ne abbiamo parlato nelle varie rassegne stampa. Ma c'è stata una vittoria veramente immensa, bellissimo, nei confronti delle amministrazioni che volevano la costruzione naturalmente dell'inceneritore nella Piana. Stiamo parlando dell'inceneritore di Casa Passerini, che ha visto un'opposizione fortissima da parte di comitati, di più di un comitato cittadino, fino a portare al risultato finale che è stata la sentenza del TAR. La sentenza del TAR che ha dichiarato illegittima la costruzione di un inceneritore, proprio perché non vi erano state tutte le opere propedeutiche ad ammortizzare l'impatto ambientale di un inceneritore in una zona già ampiamente gravata dalle emissioni di tutte le cose che ci sono lì. Io ho scaricato il comunicato dell'Assemblea della Piana contro le nocività, che dice così, lo trovate sul blog dell'assemblea: no inceneritore, no aeroporto, fermarli è possibile e lo abbiamo dimostrato. Segue il comunicato dove fa una breve storia cronologica di quello che è successo levandosi diversi sassolini dalle scarpe, fra l'altro nei confronti anche dei politici che tanto hanno prima remato contro e per poi salire sul carro quando hanno visto che la situazione non andava proprio come avevano pensato. E naturalmente in questo comunicato si introduce anche quello che sarà il futuro prossimo sia del comitato che delle lotte nella piana delle nocività, perché la minaccia non è esclusivamente l'inceneritore, ma si sta parlando comunque anche dell'aeroporto e anche di vari altri interventi. Abbiamo qua in collegamento telefonico con noi, un attimino, potete aspettare, grazie. Abbiamo in collegamento telefonico Milena, delle Mamme No Inceneritore, fa parte anche dell'Assemblea per la Piana. Pronto, Milena? Ci senti? Ci senti? Sì. Ok. Noi non sentiamo molto bene te. Vediamo. Prova ora, mi senti? Pronto, eccomi. Ok, benissimo, io ti sento molto bene. Allora, Milena, buonasera. Buonasera. Intanto una cosa sicuramente te la voglio chiedere, perché è stata una vittoria fantastica. Immagino che l'entusiasmo sia alle stelle. Ho visto vari video di caroselli, festeggiamenti delle mamme delle mamme e di tutti gli attivisti che hanno partecipato alla battaglia. Come state? Come va? Va che abbiamo fatto i trenini più che i rotondi. I rotondi ci ricordano gente degli anni passati, un pochino più dall'altra parte. No, abbiamo fatto dei trenini proprio sotto Palazzo Vecchio, abbiamo dimostrato la nostra gioia, la nostra soddisfazione proprio sotto il palazzo, dal quale venivano fuori tutte le minacce di costruire questo inceneritore, tutte le mozioni di forza e di tracotanza di questa gente che insistevano. Pronto? Ci siamo? Sì, ti sento. Ti sentiamo. Il palazzo del potere, dal quale venivano di continuo minacce che si stava per costruire l'inceneritore da un momento all'altro, dal quale venivano fuori delle dichiarazioni di massima sfiducia nelle alternative all'incenerimento, niente, le grinfie del potere sul business dei rifiuti è stato veramente molto difficile da togliere, quindi è ovvio che la gioia è stata tanta, ma abbiamo contato su una forza che è una forza incredibile, che è quella della gente, che è quella del popolo, che è quella di chi non si arrende e di chi si unisce nelle lotte. Io credo che questa sia un'esperienza fondamentale su tanti, tanti punti, non solamente sulla vittoria in sé per l'obiettivo di questa lotta, ma il percorso stesso che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni, già di suo quello era una vittoria, perché con questo obiettivo abbiamo comunque imparato che avvicinarsi alla gente con parole semplici, parole di convinzione di una lotta, di una giustizia delle idee, convincere le persone con assemblee informative a decine, senza puzze sotto il naso, cercando la gente dal basso, facendo le assemblee informative nei circoli arti, nei centri sociali, così come nelle parrocchie o nelle piazze. Cioè non c'è nessuna differenza su questa cosa. L'importante è avere un potere di comunicazione che possa un minimo, almeno un minimo, pareggiare quello potentissimo dell'avversario, perché loro riescono a imbambolare la gente prima di tutto con la mancanza di informazione. Noi che avrebbero voluto fare questo nuovo inceneritore l'abbiamo saputo quasi per caso, perché per noi ormai era una partita chiusa, no? Quella dell'incenerimento, da quando il mostro che ancora c'è lì nella zona delle piagge è stato chiuso alla fine degli anni Ottanta, pensavamo che l'avessero capito, che ci sono delle alternative all'incenerimento. E invece no, sono ritornati alla carica. Ma cosa fanno? Quando hanno un progetto che distrugge l'ambiente, che attacca le tasche dei cittadini e che distrugge la salute per i loro profitti, ovviamente non te lo fanno sapere che cosa devono fare e cosa stanno progettando. Ti mettono con un progetto già pronto davanti, ma stavolta non hanno fatto per bene i conti. Loro pensano che la gente, gli italiani, come sempre, non riescono a reagire, stiano zitti, reagiscono in pochi, e invece questa volta è venuta fuori la forza popolare. Sì, forza. Quindi popolare, che fra l'altro l'amministrazione si è sempre rifiutata di considerarla un attore, questa forza popolare, perché mai ha accettato di confrontarsi con il comitato delle mamme, con il comitato e con l'assemblea, certo, perché non le riteneva delle voci autorevoli. Certo. Non hanno mai voluto fare un confronto, hanno sempre risposto con i giornalisti, no? Con i loro mercenari della carta stampata, come sta succedendo anche adesso. Da quando è stata decretata la fine di questo progetto malsano, te cosa stai vedendo sui giornali? Questa campagna mediatica di terrorismo vero e proprio, dove, caso strano, c'è già l'emergenza rifiuti. Certo. Cioè pensano di parlare con dei coglioni di 3 anni, no? E non hanno ancora capito la lezione, eppure ne hanno presi di randellate nei denti ultimamente, già con le case, no, con il TAR, proprio con il TAR. Parlano, scrivono sui giornali come se ci fosse stato l'inceneritore già aperto e non l'abbiamo fatto spegnere dall'oggi al domani, quindi non sanno più dove mettere la roba. Il problema è, prima di tutto, la campagna mediatica che abbiamo sempre avuto contro e che tuttora è contro. Ma l'unica cosa da fare è gestirla. Assolutamente, siete stati molto bravi a gestirla. Questo vi fa onore, anche perché ha onore dei risultati, perché di fatto è stato raggiunto un risultato veramente, veramente incredibile. E quello che volevamo chiedervi è anche le prospettive future. Come vi muoverete? Che cosa succederà? Che cosa prospettate? Sì, le prospettive future sono, prima di tutto, quello di togliere dalle grinfie del sistema il business dei rifiuti, perché loro stanno facendo pagare con le tasche degli utenti, per esempio, questi 58 milioni di raccolta differenziata, che non ha raggiunto il 65% come di legge. Quindi intanto stanno facendo pagare a noi tutta la loro studiata a tavolino, secondo me, e volontà di non fare per bene la raccolta differenziata. Tanto la paghiamo noi, allora che gliene frega. Però le alternative esistono e non è una chiacchiera teorica. Che le alternative esistono, si possono benissimo vedere in posti dove già funziona benissimo, ma anche qui dietro l'angolo, a parte Capannori, se no uno poi dice ah, vuol'amenare sempre o Capannori. No, perché funziona benissimo anche a Empoli, anche a Prato, anche alla Strassigna, però ci sono ancora delle zone dove gli amministratori non si sono messi in testa che devono darsi una mossa. Per esempio Signa è un po' a macchia di leopardo, da una parte funziona, da quell'altra no. È come se fosse... Vero, vero, no, no, poi stiamo... Fra l'altro, a proposito degli esempi, io mi ricordo veramente in modo lucido un esempio che portavano le mamme in un inceneritore, proprio perché Capannori, Empoli, stiamo parlando di piccole cittadine, ma vi è un esempio limpidissimo di una città delle più o meno le stesse dimensioni di Firenze, se non mi sbaglio Vicenza, che ha attuato un sistema di raccolta veramente efficientissimo. Treviso. Assolutamente. Treviso è veramente Treviso. Al top, ma a parte anche a Milano, ma anche a Scampia le fanno porta a porta e funziona benissimo. Cioè, comunque Firenze non si vuole adeguare, perché? Perché volevano fare questa cosa che poi sarebbe andata e tutti i finanziamenti e tutti i proventi dell'incenerimento sarebbero andati in tasca a privati, che era e un gruppo di privati. Certo, certo. Basta pensare, cioè, che la questione di volontà, ma così come abbiamo con la forza dal basso della gente, del popolo, abbiamo fatto cambiare idea a tanti politici che fino a 5 minuti fa, metaforicamente parlando, erano lì che non ci volevano dare ragione, che non volevano, anzi che erano contro l'unico sindaco di tutta la piana e ci dava ragione, erano tutti contro, adesso sono tutti a favore. Questo cosa vuol dire? Che la forza della gente, se si rimane uniti, se stiamo in tanti, se non ci si arrende e se ci si rimbocca le mani e gli si va addosso, si riesce anche a modificare le scelte politiche che sono in alto. Verissimo, quindi comunque l'esperienza bella. La vittoria, la vittoria è da rimboccarsi le mani, esatto, che stanno con il fiato sul collo, che facciano partire veramente una efficace gestione dei rifiuti completamente diversa da quella disastrosa che hanno fatto fino adesso. Ci sarà da organizzare per bene il porta a porta, la tariffazione puntuale, un bel distretto del riciclo. Ci sarà da fare il lavoro grande inizia adesso, si può dire. Sì, il lavoro è grande adesso, anche perché stando al campanello d'allarme che abbiamo, che sono i giornalisti, tutti quelli che gli danno retta, scrivete questo e non scrivete quest'altro, perché tanto funziona così, stando a questo campanello d'allarme ho paura e faranno apposta a fare fallire la differenziata fatta per bene, le alternative. Quindi bisognerà tutti, non solamente le mamme, non inceneritore, pinco e palla del comitato tal dei tali, chiamiamo a raccolta tutti i cittadini, tutta la gente, perché la salute e le bollette rincarate per colpa della male gestione sono affari di tutti. Smettiamola di delegare la lotta a quei disgraziati che hanno voglia di farsi il culo, cioè lottiamo tutti insieme. E stiamo lì dietro, perché loro lo fanno apposta a farla fallire, per dire, ah, con domani, vedi, ci voleva l'inceneritore. Assolutamente, non possiamo... Speriamo che l'abbiano capito, non mi sembrano poi così lungimiranti, però diciamo che il messaggio, almeno per noi, è stato molto chiaro e non possiamo far altro che dare eco alle vostre parole. Con questo, Milena, noi ti lasciamo. Aspetta. Perché voglio dire degli appuntamenti molto vero, importanti. Verissimo, verissimo. Allora, siccome l'inceneritore doveva essere fatto in questa disastrata piana che è diventata il bersaglio dei cementificatori e degli speculatori, tolto il rischio dell'inceneritore, ora vogliono asfaltare tutto quello che doveva essere un parco agricolo e non agricolo, che è nella zona dell'aeroporto, con questo... aeroporto internazionale, no? Allora stanno imbambolando la gente di Pereto, Labrozzi e Quaracchi col fatto che l'aeroporto con la pista che andrà parallela all'autostrada invece a passare sopra le case, gli hanno risolto i problemi della vita. No, come al solito pigliano per i fondelli. Invece di far passare gli aerei in decollo e in atterraggio di qua invece di là, comunque diventando un aeroporto internazionale, ci saranno migliaia di voli e l'inquinamento arriverà a bestia. Se inquinano tanto le macchine, immagina di te quanto inquinano tanti aeroplani. Fra l'altro si può smentire anche il fatto che non vanno fatti accanto alle case e alle scuole e ai posti di studio, guarda il polo scientifico. Quindi ora ci sarà la lotta comunque per difendere la piana. Ci saranno, a parte l'aeroporto, dove asfalteranno un'oasi, un torrente, faranno un disastro ambientale allucinante, ci vogliono fare anche con il palazzetto, con lo stadio, centinaia di chilometri quadrati di alberghi di lusso, di centri commerciali. La gente questo non l'ha capito. A me non mi sembra che abbiamo bisogno di altri centri commerciali, mi sembrava ci fosse più bisogno di scuole e di case popolari. Comunque, parco, ma non è che fa male. Parco che mitichi un attimino tutto lo schifo dell'aria. Quindi ci saranno due assemblee informative per quanto riguarda il perché del no all'aeroporto, una giovedì 14 giugno al Circolo Il Padule di Via del Risorgimento 237 a Sesto Fiorentino, alle 18.30 l'assemblea e alle 20.30 la cena. Poi ce ne sarà un altro giovedì 21 al Circolo di Quinto Basso, sempre a Sesto Fiorentino, in Viale Gramsci, 560. Stesse modalità. Bene, che Milena? La cena insieme. Ok. Martedì 26 giugno, forse, questa è una data che ancora non è stata stabilita per bene. Ci sarà, mi raccomando a tutti, passate voce, una iniziativa importantissima anche bellissima, una lunga catena umana a proteggere il parco della Piana di Firenze. Una lunga catena umana che partirà dal presidio, dove c'è il nostro presidio, dove avevamo occupato il terreno, adesso ce l'hanno dato, va bene, e lì in via dello Smannoro, dal polo scientifico a Sesto Fiorentino. Di una persona umana che fa da Via dello Smannoro, dobbiamo essere in tanti, ragazzi. Quindi benissimo, quindi il 26 giugno hai detto? Non è detto il 26, è ancora indeciso fra il 26 e il 27, o forse il 28 in concomitanza con la critical mass. Quindi orecchie aperte. Benissimo. E venite tutti a partecipare, perché non è giusto che lottino sempre i soliti. Qui c'è da lottare tutti, ok? Benissimo Milena, allora nel caso poi ci riaggiorniamo e avremo piacere anche di rimandare questi eventi nelle settimane, nei giorni successivi. Con questo niente, buon lavoro. Grazie e ancora complimenti. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ci siamo, signori. Rieccoci, passami il cavo per favore. Tanto già che ci siamo, si possono dire. Sì, sì, ormai è una regia. È una puntata trasparente. Tutta volée, tutta così. Non abbiamo segreti per voi. Nessun segreto. Oh, ma lo sai che sono ripartiti anche gli effetti di mixer? Sì, Porca. Porca maiala, diceva Rotti, no, non mi avevo nulla. Bene, forse è tardissimo, signori. È veramente tardissimo. Siamo andati ben oltre i nostri tempi usuali. Infatti, e quindi che si fa? Aspetta, guardiamoci un attimino la nostra scalettona. Abbiamo detto praticamente tutto, Bracco. Sai? Sì, sì, sì, sì, siamo stati bravi. Sì, insomma, bisogna chiederglielo ai nostri radioascoltatori. Fateci sapere su postawombat@insiberia.net. Sono ben accetti anche gli insulti. Certo, no, soprattutto gli insulti. Dobbiamo migliorare, quindi se ci insultate fatelo in modo costruttivo e noi vedrete che vi ascolteremo. Giustissimo. E cosa dire? Cosa dire? Signori, viva Vuole Polveri e viva Radio Wombat e viva Olmo. Viva. Viva Grippo, viva Bricobaldo. E viva Bricobaldo, sì, sì, certo. E viva ciao Radio Wombat a tutti. Sì. Ciao. Ma Wombat. Ciao proprio. Ciao proprio, e Wombat. Sigla. Fuoco alle polveri. Bolveri. Radio Vomba.